America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Una giornata, come dire, ieri un po' agitata sui mercati, non che ci siano state delle perdite, dei rializzi preoccupanti, ma sicuramente c'è stata molta prudenza per due ragioni. La prima, abbiamo visto un indice per il settore manifatturiero, l'indice ISM, cadere a 49,5 punti, pensate, dai 51,7 punti di ottobre, quindi è un segnale che questa ripresa, soprattutto nel settore manifatturiero, non sta migliorando. Titoli come DuPont, Coca-Cola, General Electric hanno perso parecchio sul mercato, la DuPont meno 1,78%, Coca-Cola meno 1,42%, General Electric meno 1,47%. Un'unica notizia, come dire, incoraggiante è venuta dalle vendite della Chrysler. Il marchio della Fiat ha registrato un aumento delle vendite record, un più 14%, 122.565 unità, il miglior novembre dal 2007 e il 32esimo, pensate, mese consecutivo di aumenti delle vendite. Una buona performance un po' per tutti i marchi Chrysler, inclusi quello della Dodge o del Ram Truck. Sono andate anche molto bene per la Ford, per esempio, le immatricolazioni delle piccole auto, immatricolazioni record. Ecco, mentre si dibatteva però di questa situazione così un po' fragile del settore manifatturiero, a parte il settore auto, è giunta una notizia che ha di nuovo preoccupato i mercati. Our ultimate goal is an agreement that gets our long-term deficit under control in a way that is fair. Barack Obama, il presidente americano, ha respinto ieri una controproposta dei repubblicani. Il negoziato sul fiscal cliff è serrato. Ieri pomeriggio, durante la notte italiana, la Camera, maggioranza repubblicana, aveva presentato alla Casa Bianca il suo piano per il fiscal cliff. Lo ricordo, il fiscal cliff è questa rupe fiscale, e cioè il pericolo che dei meccanismi automatici di tagli alle spese, di aumenti delle tasse, intervengano in mancanza di un accordo formale fra le parti già al 1° di gennaio 2013, con una scure che potrebbe costare addirittura 2 punti percentuali sul tasso di crescita del PIL americano. Ecco, i repubblicani hanno inviato una nuova lettera al presidente. Il problema è molto semplice: non hanno fatto nessun passo indietro, hanno continuato a rifiutare l'idea di un aumento delle aliquote per coloro che guadagnano oltre 250 mila dollari l'anno, come chiede il presidente americano. Ricordiamolo, questa è una richiesta base del presidente americano durante la campagna elettorale. Obama ha vinto, ritiene di avere il diritto di poter ottenere questa concessione dai repubblicani. Ecco, qui vorrei entrare un po' nel dettaglio, forse sono dettagli un po' tecnici, però credo sia importante cominciare così ad acquisire la dimensione di questo dialogo per capire poi dove si potrà trovare un punto di incontro, perché sul tavolo delle trattative sono finiti 800 miliardi di dollari di entrate, che è la metà di quanto aveva chiesto Barack Obama. La controproposta repubblicana appoggia su un piano di taglio del disavanzo pubblico, così come fu descritto nel 2011 da Erskine Bowles durante il tentativo che fecero per trovare un'intesa sulla riduzione del deficit. Vediamo quali sono. Beh, un taglio base, l'obiettivo è comune, un taglio di fondo di 4.600 miliardi di dollari dal disavanzo in 10 anni, inclusi 600 miliardi di dollari in risparmi sul Medicare, dunque sulle spese sociali. Because I don't want to make it harder for me or the president or members of both parties to be able to find common ground. Avete sentito? Quello era stato l'auspicio di John Boehner, il presidente repubblicano della Camera. Quello che stiamo proponendo è un piano credibile che merita una seria analisi da parte della Casa Bianca. La mia impressione, devo dire, è che non lo è. I repubblicani vorrebbero avere un po' una foglia di fico per salvare le apparenze, chiedono che ci sia un aumento delle entrate attraverso la riduzione delle deduzioni, ma insistono che non vogliono l'aumento delle aliquote. E dobbiamo tutti augurarci che si vada avanti, che il muro contro muro finisca. Ci sono appena state elezioni in questo paese e l'auspicio è che si vada avanti, perché se no tutti noi inclusi finiremmo per pagare un prezzo ancora più elevato, devo dire, di quello che già stiamo pagando per via della crisi internazionale. Una curiosità: Barack Obama ieri si è scatenato su Twitter cercando di sostenere la sua campagna per ridurre le spese pubbliche. Ecco, facciamo un piccolo salto dalla realtà, dalla battaglia di questo momento politico così delicato, anche per l'economia a un film di cui vi ho parlato qualche tempo fa. Vi ho appena fatto ascoltare uno dei brani del compositore John Williams dalla colonna sonora del film di Steven Spielberg dedicato ad Abraham Lincoln. Beh, perché torno a parlarvi di questa cosa? Perché credo che in questo momento così di disaffezione dalla politica, di vuoto di leadership, di muro contro muro, nonostante ci siano appena state delle elezioni che hanno espresso chiaramente la vittoria del presidente Obama, beh, gli americani sembrano affascinati da una ricerca nel passato della leadership, e non soltanto in questo film su Abraham Lincoln, che sta facendo grandi successi al botteghino e sicuramente incasserà vari premi Oscar, ma perché il primo libro, pensate, nella classifica delle vendite del New York Times è una biografia di Thomas Jefferson, che è uno dei padri fondatori, addirittura un centinaio di anni prima di Abraham Lincoln, i due grandi punti di riferimento per la Costituzione dell'America, le due antitesi erano Thomas Jefferson da una parte e Alexander Hamilton dall'altra. Vi dicevo, il libro, la biografia che è stata scritta da John Meacham, che è stato direttore di Newsweek, è un grandissimo intellettuale, e che ha come sottotitolo, non a caso, The Art of Power, l'arte della gestione del potere, un libro di 750 pagine, è stato recensito appena poche settimane fa dal direttore del New York Times, Jill Abramson, che ha esordito il suo commento scrivendo: le biografie politiche più popolari dell'era moderna spesso ci dicono più del momento in cui sono pubblicate che dei loro soggetti. Dunque è proprio il direttore del New York Times che esprime questo timore, questo senso di malessere, questa America che ha la ricerca in questo caso nel passato dei loro grandi pionieri, dei loro grandi idoli. Thomas Jefferson è stato segretario di Stato sotto la presidenza di George Washington e poi ha cominciato a litigare con Alexander Hamilton, che era il segretario al Tesoro. I due soprattutto litigavano, guarda caso, sulla politica fiscale del paese, sul debito accumulato con la guerra di indipendenza, l'aiuto all'industria americana da parte dello Stato. Hamilton, che veniva da New York, da un'area industriale, era favorevole a questi aiuti. Jefferson, invece, che proveniva da una famiglia di ricchi proprietari terrieri, di schiavi, di grandi tradizioni del Sud, voleva favorire l'agricoltura, gli interessi agricoli, e dunque c'era veramente in questo dibattito questa grande differenza che vediamo rivivere in questo momento nel dibattito politico americano tra repubblicani e democratici, e che vediamo rivivere in questa passione che gli americani stanno dimostrando per questo ritorno al passato. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il regista americano Quentin Tarantino ha scelto Ennio Morricone, la cantante Elisa, per la colonna sonora del suo ultimo film Django Unchained, un omaggio ai cosiddetti spaghetti western, i western all'italiana. Elisa e Morricone hanno composto il brano Ancora Qui, che resta inedito in attesa di scoprirlo. Ascoltiamo una colonna sonora che ha fatto storia, scritta da Morricone per un film western che ha segnato la storia del genere, di Ennio Morricone, il buono, il brutto e il cattivo. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!